Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui in questo lunedì. In questo 11 luglio. Allora, sono le 8:20 minuti. Noi cosa facciamo? Dobbiamo subito salutare un ospite perché ci deve lasciare a un aereo. E quindi... La ringraziamo di essere con noi, sarà con noi in pochi minuti, ma giusto il tempo di fare qualche domanda. È Cécile Kyenge, ex ministro, oggi europarlamentare del PD. Buongiorno Cécile Kyenge, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, ovviamente la vicenda è quella di Fermo, come sa, lei ieri era ai funerali, ma è vero che ho letto che lei vuole costituirsi parte civile nel processo? Sì, esattamente. Perché? L'ho detto, ma perché a mio avviso questo tema della violenza, dell'istigazione all'odio razziale, che è una delle lotte su cui mi sto impegnando tantissimo e sono anche co-presidente al Parlamento europeo per un intergruppo che lavora su questo. È una questione di dignità della persona e quindi bisogna non sottovalutare i segnali e cercare anche di far capire l'importanza e le diverse responsabilità che da una parte sono responsabilità politiche, dall'altra parte sono responsabilità anche culturali. Ma si costituirà personalmente o come partito? Cioè, mi aiuta a capire, si può proprio lei come persona fisicamente oppure come Europarlamento, come partito? Ma io come persona che porta avanti la lotta con un gruppo di realtà, anche di associazioni sulla lotta contro il razzismo, e non c'entra niente il partito. Se vuole costituirsi lo potrebbe fare, anzi non sarebbe neanche male, perché a mio avviso questo tema è stato sottovalutato e noi non abbiamo dato una risposta adeguata come classe politica e non abbiamo saputo dare la risposta a quello che fu uno dei punti che mi hanno fatto partire anche come lotta su questo tema, perché sono 3 anni che entro e esco dai tribunali come parte civile in tanti processi dove in alcune volte hanno cercato di farmi sentire colpevole. E qui ho deciso di non lasciare da sola lei, di starle accanto, perché esattamente, perché io so come mi sono sentita molto sola in alcuni momenti e dove mancava anche un supporto proprio di chi doveva dare una risposta concreta anche la legge, l'istituzione e anche del suo partito, mi sembra di aver capito, no? Anche Da molte persone, devo dire che tutto questo cammino devo ringraziare, non si può generalizzare, certo. Però all'interno del partito ci sono persone, c'è la nostra base che è stata a mio fianco, ma si può dire che in generale il partito non ha saputo dare una risposta, la politica non ha saputo dare una risposta, io su questa sono molto netta, ma anche sul fatto che ad essersi costituita parte civile in tutti i processi che sto seguendo, perché sto seguendo io, le sto pagando personalmente attraverso anche un mio avvocato, e non vorrei che si trovasse così anche lei, perché so cosa significa. È proprio per questo che le mie motivazioni sono molto precise. Quella dichiarazione, quegli insulti, non sono dichiarazione, l'insulto a sfondo razziale, quindi con istigazione all'odio razziale di Calderoli, non ha mai trovato una risposta. Io oggi con lui andremo fino alla Corte Costituzionale. Sì. Senta, le posso fare una domanda? Lei ha fatto adesso un esempio, anche parlando del suo partito, del fatto che la politica in Italia e anche le istituzioni, ha detto, non fanno abbastanza per affrontare la questione che è culturale, cioè non combattono abbastanza. Ma oltre a questo, la sua esperienza, non sto parlando solo di quella personale, perché quella personale ha appena fatto cenno, quello con Calderoli e così via, ma in generale il giudizio che si sente di dare è che poi la politica, partiti in Italia, oltre a non dare la risposta culturale, cavalcano anche, promuovono e cavalcano il razzismo, secondo lei? Sì, l'ho detta più volte, la sua mentalizzazione e il fatto di considerare lo straniero come la causa di tutti i mali, o non solo lo straniero, il diverso, e in molti casi lo vediamo, come la causa di tutti i mali. Non c'entra niente con il fatto che la politica debba dare delle risposte sulla disoccupazione giovanile, deve dare una risposta su temi che sono di giustizia sociale, che sono giustissime, su cui bisogna lavorare. Però bisogna anche riuscire a capire che anche il fenomeno migratorio è un fenomeno naturale, storico. In alcuni momenti, per avere anche una fase, attraversare una fase come questa che fa parte di quella crisi umanitaria che stiamo vivendo, e chi fa politica deve riuscire anche a distinguere, conoscere tutti questi, sì, le cause, i fattori che muovono le persone, che non sono quelli che hanno portato alla disoccupazione giovanile, non sono quelli che hanno portato alla crisi, all'impasse politica in Europa. Noi oggi qui abbiamo una crisi di leadership, di una visione dell'Europa, che rischia veramente di arrestare quel processo di integrazione europea di cui abbiamo bisogno, perché da solo uno Stato membro non va da nessuna parte. Noi nel ringraziarla, Cécile Kyenge, un'ultima cosa, siccome spunta oggi sui giornali un altro testimone che racconterebbe la vicenda di Fermo dicendo è stato Emmanuel che, sentito l'insulto, per primo fisicamente ha reagito. Questo, se fosse accertata questa dinamica, lei cambierebbe qualcosa nella lettura? Io le faccio solo una domanda e la lascio anche a chi, sì, ci ascolta. Passate per la strada e senza motivo venite insultati e le chiedo, e insultano la vostra compagna e vostra moglie. Lascio a voi la riflessione. Cosa potete fare se non conoscete i vostri diritti e soprattutto se non sapete a chi rivolgervi, e soprattutto visto il clima che stiamo affrontando. Non giustifico nessuno, ma parto proprio da questo: un'educazione culturale, dare degli anticorpi anche a quella persona che ha cominciato per prima per insultare, forse il ragionamento lo dobbiamo fare a monte, poi il resto lascio fare agli inquirenti. Questo sarà, però parto proprio, certo, da qui. Sarà una questione di tribunale. Cosa potete fare? Intanto noi la ringraziamo, grazie per essere stata con noi, Cécile Kyenge, ex ministro, europarlamentare del PD. Insomma, Oscar, siamo partiti da qui, come dire, perché c'è un aereo che incombeva Cécile Kyenge, la ringraziamo per essere stata resto, da pochi minuti. Per così dire, l'aereo ideale che collega poi la vicina di Fermo all'incendio che negli Stati Uniti, da Dallas in poi, si è appiccato. E di cui parleremo. Però non ci siamo scordati dei santi, no? Tutti li siamo scordati. No, non me li siamo scordati, anche perché oggi il santo è addirittura il patrono dell'Europa, perché San Benedetto di Norcia, quindi è uno di coloro... che è inutile dire. Non è troppo dire che ha cambiato la storia dell'Occidente, uno dei pilastri, perché il suo monachesimo a cavallo del V e VI secolo ha proprio disegnato l'identità europea, migliaia di monasteri in meno di 200 anni dalla sua morte. Quindi proprio, e anche per questo io sono molto felice che Benedetto Norcia sia un patrono dell'Europa. Poi ci sono i santi, se lo dico i nomi strani, San Chetillo, San Diostano, Sant'Idolfo. Però pensate, oggi il caso vuole che nel 1977 il congresso americano desse la medaglia della libertà a Martin Luther King, che era stato ucciso nel 1968. Ah, proprio ricorsi e ricorsi. Pensa storici. Che il congresso ha dovuto aspettare la bellezza di 9 anni di fronte a Martin Luther King ucciso per dargli la medaglia della libertà. Questo dà l'idea di come questo problema degli Stati Uniti poi sia un problema, insomma, bello profondo, serio, ecco, e non da sottovalutare. Però con un tono di leggerezza, è anche il compleanno di Lino Banfi. Ah, quindi... beh, ma se non sbaglio, tra l'altro 80 anni. Nel 1936, esattamente. Fa 80 anni precisi oggi, e quindi io sono contento di dargli, perché insomma, è un personaggio simbolo, dai, certo, fa parte dell'immaginario, certo, italiano, e ha fatto sorridere i suoi allenatori di calcio. Secondo me sono veramente l'allenatore. Certe volte penso che il calcio meriti un po' di essere anche preso in giro così. Adesso non vorrei toccare la sacralità dopo la vittoria del Portogallo. Ma no. Visto che oggi è l'anniversario della vittoria del 1982 dei mondiali di calcio italiani, che rimangono. Però ieri non mi è dispiaciuto che alla fine vincesse. Ma io sono contentissimo, insomma. Poi anche perché hanno tentato di abbattere, ecco, Cristiano Ronaldo dopo pochi minuti, anzi lo hanno abbattuto e lì dalla panchina, anche hai visto fino alla fine, con un ginocchio fasciato. Devo dire, viva il Portogallo. Carino. Allora, come avete capito, 800 24 00 24, parliamo, se volete, caro Oscar, ancora di Fermo. Io, guarda, ci sono dei messaggi che arrivano anche a WhatsApp. non lo so, ma cosa devo, c'è da dire, leggerli, non leggerli, vabbè, chi critica va bene, e finché si critica e si dice, ma poi vedi che ci sono gli epiteti, negra vattene, alla sì, chienga, ci sono, negra ma vattene, no no, ma per carità, su cioè, questo, da quando abbiamo toccato l'argomento, perché è riesploso, io ho ricevuto un pacco alti così di lettere, contestazioni, insulti. Le contestazioni sono benvenute da parte di tutti, gli insulti, perché si viene considerati come una parte dell'informazione che travisa la realtà. La realtà sarebbe quella di milioni di italiani stufi della strumentalizzazione fatta da un presunto partito pro immigrati, pro neri, pro africani, non lo so, e molti di voi pensano che questa sia il motivo per cui ci si occupa di queste faccende, e vai con gli insulti e vai, ecco, io vi invito solo, comunque la pensiate, alla pacatezza, ma io non ho capito neanche quel hashtag, per chi frequenta su Twitter, io sto con Amedeo, come se fosse una partita di calcio, no? Tifo per l'uno, no tifo per l'altro. L'Italia si deve, siamo un popolo un po' bambino in questo, ci si deve dividere con gli sms, con l'italiano sempre. Con l'italiano, ma come sempre, con l'italiano, ma che vuol dire? Io non sto, scusate, con i ladri in politica, posso stare con gli assassini? Ma non so, ma rifletteteci, io veramente. Poi ripeto, tutti quelli che mi hanno insegnato la dinamica come se fossero presenti, e poi alla fine non c'è modo di ribaltare la cosa che l'italiano ha ammazzato Emmanuel, però tutto questo sarebbe agli occhi di molti, come se fossero presenti, comunque giustificato. E allora io uno prende atto, e devo pensare però che per i molti che la pensano così, tutto sommato, se iniziassero a fare il tirassegno con gli immigrati non gli spiacerebbe troppo. Scusate se ve lo dico, ma poi per carità. Ma sai, anche su Libero, vedi, c'è un'intervista a Calderoli, esordisce proprio così, dicendo poi magari dovremmo accertare che è stata una legittima difesa questa di questo italiano. Cioè, ricordiamo sempre che c'è il tribunale per stabilire la dinamica, ricordiamo anche i fatti che insomma l'insulto gratuito è partito da lui, e il morto, scusate, è quello che ha ricevuto l'insulto, a non parte quello tutti quelli che mi hanno detto che c'entra, non c'entra la matrice, quello è un episodio di cronaca, non c'entra la matrice razziale. Scusate. Dare della scimmia, allora, a un nero. Non è... Secondo voi, allo stesso modo, gli oltre 200 neri uccisi dalla polizia in circostanza americana, nei diversi stati, in circostanza, cioè dall'inizio dell'anno, guardate che le cifre sono queste, anche quelli non c'entrano niente con il razzismo. Il video postato dalla fidanzata da cui è partito tutto questo, in cui si vede il poliziotto con la pistola, cioè che lo uccide perché gli ha chiesto di prendere la patente, è un errore sul lavoro quello, ecco, con questo criterio certo si fa finta che non esista una enorme questione che è collegata al colore della pelle, però esiste, per molti di voi probabilmente no. Comunque vediamo come la pensate. 800 24 0024. Tra l'altro, Oscar, tra poco ci occuperemo proprio anche di America. Domani il presidente americano Obama, il primo tra l'altro nero, presidente nero, andrà proprio a Dallas a cercare di capire, cercheremo di capire anche se questo potrà impattare sulla corsa. Beh, comunque le parole che molti sono stati costretti a dire anche per questo intervento freddo, tutto sommato, di uno sconfitto, perché tutti hanno dovuto dire Obama, che primo presidente, ricordiamolo, afroamericano della storia degli Stati Uniti, ha dovuto mettere 8 anni di aver fallito, voleva unire il paese ed è più diviso che mai, ci sono più tensioni razziali oggi di 8 anni fa negli Stati Uniti. Questo è vero. E Cecil Kyenge è stata con noi e ha detto: mi costituirò parte civile nel processo ad Amedeo Mancini, affermo. State con noi, tra poco rientriamo dopo la pubblicità. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta. Tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar, sono le 8 e 37 minuti. Eccoci qua, in questa Italia che si divide se spacchettare il referendum, come cambiare la legge elettorale, un po' lunare questa cosa. Ti pare che la politica poi dice che gli elettori sono il problema dei referendum, non i politici? Cioè, se lo spacchettassero, ti faccio solo questo esempio perché non è il momento di parlarne, però potremmo, secondo la loro luminosa idea, si potrebbe, a un certo punto gli elettori potrebbero avere un quesito per cui potrebbero dire: no, vogliamo il bicameralismo perfetto come prima, il Senato deve dare era la fiducia, perché uno dei cinque, e poi un altro in cui gli chiedessero invece: ma volete un Senato non elettivo come adesso? Sì. Ecco, sarebbe colpa a quel punto degli elettori o dei politici pazzi? La mia opinione è che se lo spacchettano così è la seconda. Adesso, dai. Ma insomma, vedremo, queste sono questioni appunto politiche, politiche un po', sì, un po' lontane. Oggi per esempio c'è questo sondaggio di Repubblica a dire il 37% è per il sì al referendum, il 30% è per il no. Secondo me la maggior parte degli italiani non sa risponde. Neanche di che cosa, di che cosa stiamo parlando. È la parte che dà una risposta, quindi no, veramente certe volte bisognerebbe pensare che non bisognerebbe assecondarla questa cosa dei politici parlare di cose lunari, ecco, capito? Ecco. Beh, la mia modestia. Opinione. Comunque ci chiamano gli ascoltatori, immagino su Fermo, insomma abbiamo avuto ospite Cecil Chieng, tra poco parleremo di America invece e le tensioni razziali. Gianni ci chiama da Napoli, buongiorno Gianni. Ciao Alessandro, buongiorno. Eccoci. E complimenti ad Oscar per l'abbigliamento. Grazie, in mancanza di no. Meglio, grazie. Dica, tenevo Gianni. A dire una cosa, premesso che sono un iscritto al PD, sì. È premesso che non riesco nemmeno a pronunciare la parola negro, ci vengo a fare questa premessa. Detto ciò, però, trovo che l'atteggiamento della Chieng, nonostante a parole dica che non giustifichi la reazione del migrante, il fatto di costituirsi parte civile, secondo me, non aiuta il clima. Perché? Tutto qua. Perché? E istiga comunque un po' le persone contro. Ma istiga, cioè si costituisce parte, ci si costituisce parte civile. Detto ciò, io non giusto, sì. Detto ciò, figura, io non. No, va bene. Non questa è l'idea. Questa è l'idea. No, va bene, Gianni, grazie. Insomma, lei ha già spiegato che si costituirà parte civile perché crede che. Lei dice non vuole lasciare solo la vedova, certo. Questa è la spiegazione, e anche perché l'ha subito su di lei e poi perché crede che la vicenda razziale abbia avuto un ruolo in questa vicenda. È interessante capire da parte del nostro ascoltatore, ma perché la Chieng è un personaggio divisivo oramai, per cui se va una cosa società la reazione opposta, o perché il giudizio del, no, lasciamo alla corte e non coinvolgiamoci politicamente, perché sono due cose un po' diverse. Gianni è ancora in linea, che dice? Sì. Cioè no, che... io penso solo che si è ritagliata questo ruolo di continua vittima e ci gioca un po' tutto qua. È questo. È una mia opinione personale. Ma certo, Gianni, continuerò a votare il PD, però ci tenevo a dirlo. A questa cosa, va bene. Gianni, grazie molte. Andiamo a Pesaro da Silvio, buongiorno. Pronto? Sì, la sentiamo un po' lontano, Silvio, dica. Sì, buongiorno, mi sente? Meglio. Allora, io volevo dire, lascio perdere quello che ha detto quello di Napoli, capisco perché il PD, anche dove è arrivato e dove si trova, con persone che la pensano in quel modo, vabbè, lasciamo perdere, anch'io sono del PD. Io ho sentito giorni fa che lei ha letto un messaggio di uno di Fermo. Sì. Diceva, conosciamo l'ascoltatore che diceva conosciamo questo tizio, questo oggetto, sappiamo che tutti i giorni sta lì e fa queste cose, prima o poi sarebbe successo. Questo lo prendiamo per fede, insomma. Ci ha scritto da Fermo, ha detto lei, ha letto un messaggio, sì. Va bene, ho capito. E quindi io dico la responsabilità è della collettività di Fermo, che non è stata in grado di isolare e di mettere quel soggetto nella condizione di non fare quello che ha fatto. Isolare, esatto. Sa, se finché uno non commette un reato non è che lo si può... Si può mettere in condizione, perché io voglio allargare il discorso. Se noi quando vediamo certe cose non reagiamo, e voltiamo lo sguardo dall'altra parte, facciamo finta di non vedere, poi non dobbiamo meravigliarci che succedono certe cose. Va bene, Silvio, questa è la sua posizione. Oscar, qua adesso dobbiamo mettere tutta la comunità di Fermo sotto accusa di non essere riuscito a fermare. Semplicemente sommessamente dire, perché non voglio più ricevere quei messaggi, che la questione culturale si affronta reagendo e parlandone incessantemente. Credere a una messa in sicurezza di massa di chiunque insulta, un quarto della popolazione, le curve degli stadi sarebbe in carcere permanentemente. Vi faccio riflettere facendo un esempio che sottolineo non c'entra, però ripeto, non è possibile pensare che agli arresti preventivi per migliaia di persone nelle strade uno su cinque. Minority Report come... era così in film con Tom Cruise, te lo ricordi, che prevenivano i crimini e quindi li arrestavano prima. Mentre la questione per risolvere è culturale, e su questo in Italia mi dispiace, in questi ultimi anni di crisi noi abbiamo fatto passi indietro di revanchismo nazionalitario, autarchico, si vede dai temi europei fino agli immigrati. È un impasto che io non mi permetto di giudicare, che fa parte della storia italiana perché ce lo portiamo dietro, cari ascoltatori, perché ci siamo comportati, gli italiani dell'armata Sagapò si sono comportati nelle colonie come nell'est quando erano con le loro forze armate, come si sono comportati, ecco, non solo pane, amore e fantasia, e ce lo portiamo dietro e ogni tanto risale. Io sono per affrontarlo con le armi culturali, ma non certo con le deportazioni di massa preventive. Allora, sono le 8:44, vogliamo parlare anche di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, dove un video tre giorni fa ha sconvolto l'America. È un video girato da una donna, Diamond Reynolds, che filmava in un posto di blocco di fatto l'uccisione del poliziotto, che è quello che sta urlando, che gli aveva ucciso da poco il fidanzato. È incredibilmente il tono fermo, gli dice della sir, fidanzata sir. Mentre quello che urla è il poliziotto che si è reso conto, il poliziotto che diceva gli avevo detto di star fermo con le mani. Sentite invece la la calma della donna con a fianco il fidanzato morto, dicendo stava solo prendendo la patente. Allora, la scena sembrava drammatica questa due giorni prima di quello che invece è avvenuto a Dallas, dove a Dallas c'è stata un'esecuzione di cinque poliziotti bianchi, qualcuno dice per ritorsione, non lo so, o era tutto già pronto. Non lo per so. Da quello che si è capito, questo Michael Johnson è un personaggio che, da quello che hanno fatto trasparire poi gli inquirenti dopo aver perquisito casa, che aveva radicalizzato la sua opinione di fronte a episodi di questo genere, facendo riferimento anche sui social a movimenti iperminoritari, a dire la verità, della violenza nera, iperminoritari. E però si era sempre più radicalizzato, quindi di fronte a episodi di questo tipo, poi la cosa che mi ha molto colpito, ripeto, lo diciamo prima, però, è che Dallas, cioè non proprio una piccola città americana, per ore e ore e ore non era in grado di capire cosa era successo, e il capo della polizia sembrava diffondere la tesi che fosse stato un complotto con 4-5 tiratori scelti addirittura, che avevano sparato in maniera incrociata, invece era uno. Comunque, vogliamo farci aiutare da Aaron Mains, che è uno scrittore giornalista americano, vive da anni in Italia, è stato anche corrispondente del Wall Street Journal, e che salutiamo. Aaron, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Intanto, domani Obama andrà a Dallas, vogliamo partire da lì, cioè da cosa succederà, da cosa potrebbe succedere domani, cosa potrebbe dire domani Obama, per poi raccontare a ritroso quello che è successo. Cosa succederà domani con Obama a Dallas, Aaron? Ma credo che Obama farà un discorso voltato alla pace, come al suo solito. Cosa succederà nel reale, cioè nei fatti, credo ben poco. Ahimè, gli Stati Uniti sono in una situazione molto difficile per via delle nostre leggi permissive sul possesso delle armi. Lo stesso avvenimento a Dallas è stato molto confusionario, si è capito adesso, perché molte delle persone che protestavano pacificamente, completamente pacificamente, e anzi sono stati anche protetti dalla polizia, ma camminavano con delle armi anche militari sulle spalle. E questo ha fatto in un primo momento, ha reso molto difficile per la polizia di capire esattamente da dove venissero gli spari. Tant'è che avevano appunto in un primo tempo, dicevano che sono stati 3 o 4 shooters anziché uno. Quindi il problema delle armi, che è un dibattito, come dire, che si porta dietro anni e anni di polemiche anche e decenni, certo. E però anche questioni che per esempio Oscar Giannino difende sempre sulla questione somma della libertà americana. Io spiego a chi ci ascolta, che spesso non è tenuto a sapere qual è la radice di quell'emendamento costituzionale, che dietro c'è una radice storica. Io però la cosa che chiedo a Aaron Mance, al di là di questo, che è un problema secondo me che gli Stati Uniti si porterà ancora a lungo per risolverlo, non tutti i nostri ascoltatori sanno che ci sono degli stati molto più permissivi di altri e così via, proprio lo stato in cui Dallas infatti aveva cambiato una legge per cui si possono anche portare in pubblico, come adesso ricordava Aaron Mance, armi da guerra, cioè stiamo parlando di fucili d'assalto, e questo è in altri stati non si può fare, così via. Ma detto tutto questo, com'è che 8 anni dopo il primo presidente afroamericano, le tensioni razziali tra bianchi e neri, al netto del problema delle armi, ripeto, sono molto più forti di allora? Non credo che i problemi in sé siano cambiati, né il numero né le percentuali. La bella differenza è che adesso una voce che prima taceva non tace più, e questo fa la grande differenza. Supportato ovviamente dai social, dalla media, dall'internet, che ci permette di vedere scene come abbiamo visto pochi giorni fa, dal vivo quasi. E quindi io credo che stiamo assistendo negli Stati Uniti a una cosa, un cambiamento epocale, che possa essere paragonato al 68 qui in Europa, per dire, in cui un'enorme massa di persone che prima soffriva in silenzio adesso non soffre più in silenzio, si alzano la voce, e quindi rende necessario il cambiamento. Ma è un problema il fatto, statistiche alla mano, per esempio, che i poliziotti americani, leggevo, su 500.000 poliziotti americani solo 58.000 sono afroamericani, e soprattutto se uno vede il numero delle persone uccise ai posti di blocco è spropositatamente sbilanciata a sfavore degli afroamericani, che sono spesso vittime pur essendo il 14% della popolazione totale. Sì, sì, ma non credo che bisogna vedere la reazione della polizia in chiave, o meglio, penso che sarebbe uno sbaglio guardarlo soltanto in chiave razziale. No, certo. Penso che sono delle pratiche, che cioè il stop and frisk, il controllo automatico, ci sono tutta una serie di pratiche all'interno della polizia, diciamo consuetudini, che vanno cambiate. Tant'è che non sono sempre i bianchi che sparano ai neri e viceversa, a volte sono neri, poliziotti neri che sparano a neri. Qui bisogna ripensare un po' radicalmente il modo di fare polizia. E in molte città l'hanno fatto, devo dire che alcuni, per esempio New York, dove queste uccisioni accadono, ma vengono meno rispetto ad altre grandi città, perché hanno messo in pratica una serie di, diciamo, di polizia vecchia stile, col poliziotto di quartiere che conosce un po' meglio le gente, che gira sempre in quel quartiere, per dire. Questo era cominciato già sotto, prima di Bloomberg ancora, sotto Giuliani. Prima chi con cui abbiamo aperto dice che in Italia, ha espresso la sua opinione, in Italia c'è chi, sono partiti, uomini politici che soffiano deliberatamente per voti in maniera demagogica sul tema razziale. Negli Stati Uniti l'ipotesi di la candidatura per la presidenza Trump, dal tuo punto di vista, può essere giudicato allo stesso modo come fanno alcuni osservatori italiani, oppure è un modo molto europeo di guardare alle caratteristiche fuori dal sistema di Trump? Non so se capisco bene la domanda. Se Trump, cioè l'asceso di Trump, è collegato in qualche modo col discorso razziale? Sì. Ma Trump di certo, lui è attraente per una fetta della popolazione che magari non ama i neri, questo può anche essere. Ma non credo che in fondo la sua popolarità è legata a motivi razziali, di più a motivi economici, e soprattutto al fatto che lui viene percepito da una parte dell'elettorato come una voce fuori dal coro. Sono molto d'accordo con questa lettura. Lo dice come le cose, come stanno. No, perché ho visto editorialisti italiani che invece lo hanno immediatamente bollato di razzismo e così via. Lui cavalca la cosa di conteniamo gli immigrati, lo cavalca con proposte durissime. Però considerarlo un antinero per questo, però insomma, anche secondo me la caratteristica è quella che hai detto tu, però. Cioè di parlare fuori dal coro. Sì, è fuori dall'establishment, questo è il problema fondamentale. Sì, sì, viene visto come uno derrompente. Esatto, il stesso motivo per cui molti che votavano laburista in UK hanno finito per votare Leave e non per i Remain, come dicevano i leader del partito. Insomma, ci sono analogie nella diversità. Certo, bisogna capire ora che succederà, cioè se sono dei fuochi che verranno spenti, ecco, questo Aaron Mance, è quello che non è la risposta che puoi darci tu, e nessuno sa che cosa succederà dal punto di vista delle tensioni razziali. però certamente bisogna capire da qui anche a novembre che succederà, cioè se c'è il rischio che nuove tensioni possano riesplodere. Ma personalmente non credo, non credo in Trump. Trump in fondo si disfa da solo, beneficia in qualche maniera del fatto che neanche Hillary è particolarmente popolare. Esattamente. Però non credo, adesso magari i miei connazionali mi smentiranno, cavolo, spero proprio di no, ma non credo che poi la maggioranza americana riesca ad eleggere Trump. Però il tipo di campagna alla fine tra Hillary e Trump non prevede la tematica bianchi-neri, cioè per come sono fatti loro parleranno di altro, credo. Ma sì, certo. Ma sarà impossibile per loro non parlare di questo, di questo issue, non sarà possibile per loro evitarlo, però lo metteranno in contesto con tutta un'altra serie di cose importanti, sì, soprattutto l'economia in chiave americana. Esatto, non avranno l'approccio a volte un po', come dice Oscar, nostro, un po' banale, insomma lo metteranno con la loro prospettiva, non certo con la prospettiva. No, ma soprattutto si mettono alle spalle questa visione ispirata che non ha prodotto molto, secondo me, di Obama, ecco, questo è il punto. Allora, noi ringraziando Aaron Mains davvero per essere stato con noi, vediamo se c'è Maria, ci chiama da Caltanissetta, ricordiamo che noi andiamo avanti fino alle 9.30, certo. Però abbiamo 30 secondi per chiudere questa prima parte, diciamo così. Maria, buongiorno. Ciao, buongiorno. Eccoci. Ascolta, io in questi 30 secondi volevo semplicemente dire che io abborro assolutamente il razzismo e volevo chiedere scusa per tutte le interventi di venerdì. Scusa, questo tema per me è molto forte. Volevo chiedere scusa per tutti gli interventi di venerdì contro i neri, contro tutte le persone che oggettivamente possono sembrare diverse da noi, ma non lo sono. Allora io, se ho antipatia verso un nero, piuttosto lo ignoro. Non vado a cercare la rissa, non vado a cercare lo scontro. E in ogni caso non spetta a noi dire chi ha aggredito chi, di chi è la colpa. Indubbiamente rimane comunque un omicidio a matrice razzista. Maria, insomma, possiamo sentiamo dire, la io, partecipazione anche. Grazie anche per il modo. Grazie per il modo, insomma, un intervento molto sentito. Ecco. E poi, insomma, non c'è da chiedere scusa. Maria, non ti sentire in colpa per quelli che hanno chiamato venerdì, ognuno risponde per se stesso. Però abbiamo già stigmatizzato. Grazie del tuo cuore, che ogni tanto bisogna sentire quello che il cuore dice. Grazie Maria da Caltanissetta. Dopo il giornale radio state con noi, parleremo di diete vegane. In realtà no, ma più che di diete vegane, no. Che uno dice, sì, sono impazziti quei ma due. No, ci sono dei fatti di cronaca, dei fatti di cronaca di ancora un bambino che è stato portato. Si parla del diritto alle alimentazioni etiche sui piccoli, sui bambini. Fino a che punto i genitori possono scegliere, con quali conseguenze, fino a che punto il tribunale deve dire no, un momento, tu non puoi più, te lo levo. Mica da ridere. Tra poco i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. Mercoledì prossimo entrano in vigore le nuove regole sui furbetti del cartellino, vale a dire i dipendenti assenteisti delle pubbliche amministrazioni. In base al nuovo meccanismo, questa è la novità, si dovrebbe arrivare all'effettivo licenziamento del dipendente assenteista in poco più di un mese. Per essere precisi, basteranno 48 ore per ottenere la sospensione e altri 30 giorni per concludere il procedimento che porta all'effettivo licenziamento. Visto il ritmo con cui le cronache riferiscono di questi abusi, non ci vorrà certo molto tempo per capire se il calendario sprint e le sanzioni che sono state introdotte anche a carico dei dirigenti saranno in grado di contrastare questi abusi. Le ultime notizie risalgono peraltro a giovedì scorso. A Belluno sono finiti sotto inchiesta 12 forestali e a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, sono indagati 24 dipendenti del comune che lasciavano l'ufficio dopo aver timbrato il cartellino. È vero che l'assenteismo non è in tutti gli uffici, ma è altrettanto vero che ha raggiunto dimensioni che non sembrano fisiologiche, come forse non è fisiologico che in un'organizzazione fatta di 3 milioni di persone i licenziamenti disciplinari per assenze ingiustificate siano solo meno di 100 all'anno. Ora arrivano nuove regole rafforzate con l'aggiunta delle sanzioni introdotte per responsabilizzare i dirigenti, e tutto ciò può davvero mettere il freno a un fenomeno che colpisce al cuore la credibilità della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione fatta in larghissima parte di lavoratori efficienti e onesti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, le 9 e 5 minuti, caro Oscar. Non siamo andati tornati. Via. No, non siamo andati via, e rimarremo. Vedremo, vi racconteremo anche l'esito di questo grande vertice europeo in cui l'Italia si presenta con una bella lista di deroghe per far tornare lo Stato nelle banche. Segnalo solo ai nostri contatori che ogni tanto c'è qualcun altro gatto nero che la pensa come me rispetto ai più che battono le mani al ritorno dello Stato. Per esempio oggi Alberto Mingardi sulla Stampa spiega, chi vuole lo legga, e bravo Maurizio Molinari che lo mette in apertura rispetto al concerto dei media che la pensa all'opposto. Stato. Noi siamo un po' dissidenti. Invece meno Stato. Tu noi vuoi siamo meno un po' dissidenti stato. Visto che lo Stato nelle banche ha dato una prova di sé che ha lasciato una scia sanguinosa. Quando dico sanguinosa intendo riferirmi agli affari che lo Stato nella banca italiana legati alla memoria di gente come Sindona, e lo dico, sapete perché? Perché oggi è il compleanno, purtroppo è l'anniversario dell'assassinio di Giorgio Ambrosoli, l'assassinio del liquidatore della banca privata, quando tutta la politica italiana tifava per chi lo fece assassinare. Ricordiamoci che cos'è stata la politica nella banca italiana. Allora, alle 9 e 6 minuti, intanto c'è Enrico Maria che ci chiama da Grosseto, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti, io allora sono, non gestisco, ma sono diciamo la struttura ospitante per un centro di migranti, è una piccola struttura, un agriturismo, gestisco diciamo 13 ospiti. Da 4 mesi. Cioè, ha un agriturismo dove ci sono 13 migranti che vivono lì. Sì, non sono però l'ente gestore, ecco, sono la struttura ospitante. Sì, la struttura. E io quindi comunque vivo qui con la mia famiglia, ho 4 figli, quindi ci viviamo insieme. Uh-huh. Ho la parte diciamo dove ci sono loro, facciamo colazione, pranzo e cena, eccetera. Sono 4 mesi, si sono alternate diciamo finora una trentina di ragazzi. Sì. Io ecco volevo intervenire sul quello che ha detto prima l'europarlamentare, in quanto mi sembra, non mi trovo assolutamente d'accordo. Io sinceramente non, la mia opinione personale, non l'ho apprezzata quando era ministro, in quanto secondo me nel momento in cui sei ministro puoi agire, quindi poteva fare sicuramente un qualcosa o proporre un qualcosa, e ciò non è stato fatto da parte sua. E tutt'oggi come europarlamentare mi sembrano tante belle parole, ma alla fine i fatti non è seguito nulla. Io non ho mai sentito una proposta concreta o comunque che potesse corrispondere a qual è la situazione reale di questi ragazzi. Vabbè, in Italia mi interessa, non so se te Oscar invece questi 13 l'esperienza ragazzi diretta che lei ha fatto 30 loro. Che hanno girato, che cosa dicono, si informano, sanno della vicenda per esempio di Fermo? Insomma, no, niente loro nonostante questi che ho adesso sono 13 ragazzi nigeriani. Quindi sì, sì, esatto, però loro, nonostante siano molto tecnologici, ma anche molto più di me, perché con quando tutti il cellulare, qui hanno connessione internet, diciamo illimitata, per cui... Sì. Però ecco, come tutti, come in Italia e altro, anche loro diciamo vivono molto la loro di situazione, sì, non guardano quella non degli guardano altri. Altri. Va bene, va bene. Quindi su quello no, non hanno, neanche sui diversi attentati quando avevo gli altri ragazzi, diciamo altre nazionalità. Cosa risponde a chi l'avranno accusata di speculare, fare soldi su queste vicende, anche a lei immagino? Sì, no, beh, anche in zona. Cioè, allora, io intanto il problema vero è che sicuramente io e la mia famiglia ci siamo fatti due conti. Allora, con 3 mesi l'anno non ci vivevamo, non riuscivamo a coprire le spese. Io mi sono trasferito da Roma 5 anni fa e abbiamo aperto questo agriturismo, ho 42 ettari, come facciamo il formaggio, un caseificio aziendale, un'azienda biologica. Però ecco, 4 figli e tutto, le spese, quello che sono purtroppo. Insomma, due conti date. Quindi se l'hai fatti. Noi siamo fatti due conti e lavorando 365 giorni l'anno io prendo 20 euro al giorno al migrante, IVA compresa, sì. E faccio colazione, pranzo, cena, il cambio delle camere, più tutti i prodotti per l'igiene, eccetera. Queste sono le cifre. Vabbè, così vabbè. Almeno leviamo una... No, non è chiaro, Enrico Maria. No, giusto... parlano cifre che viaggiano da... No, visto che i suoi conti li ha fatti, comunque... Io faccio i miei conti, che è la mia convenienza. Dall'altro canto cerco di prendere il più possibile da questa situazione, quindi che i miei figli possano conoscere quali sono le altre realtà, sì. E quello che è anche nel resto del mondo. Loro, i miei figli, i ragazzi parlano molto bene inglese, ne ho avuti diversi anche, sì, gente molto preparata, per cui i miei figli studiavano inglese con loro e gli facevano un pochino di italiano. Ma i suoi ospiti pensano che siamo razzisti? Assolutamente no. Beh, assolutamente no, anche perché anche... l'immagine che loro hanno dell'Italia mi sembra un'immagine positiva attraverso loro la sua famiglia, positiva, no? Di accoglienza, di... Sì, il discorso dipende dove e come vengono accolti. È chiaro. Quello, la mia è una struttura molto piccola, quindi 13 persone, non è un campo questo, loro lo sanno, i ragazzi prima lo sanno, l'hanno sempre tenuto a mente che questa diciamo da noi è una grande famiglia. Certo. Problema che però io mi sono dovuto purtroppo scontrare con l'ente gestore, il quale non vuole questo tipo di rapporto con i ragazzi. Va bene, Enrico Maria, noi intanto la ringraziamo per questa testimonianza, l'abbiamo fatto raccontare a lungo, insomma, quello che è un po' la sua esperienza anche sul campo, no? Perché tante volte si parla, però Oscar, chi poi ha contatto davvero e ha contatto con queste persone... Eccetto l'esperienza dei grandi campi, non è improntata a questi stessi toni, esatto. Immagino, da quello che sappiamo, ecco. Comunque sono le 9:11 minuti, adesso parliamo, ma non tanto di veganesimo, non è questo che ci interessa, perché Oscar subito, perché sul veganesimo hai storto il naso? No, perché non vorrei aggiungere a un tema su cui già abbiamo preso carrettate di insulti, un altro tema su cui c'è una reattività nella mia esperienza storica del conduttore abbastanza elevata. Abbastanza, sì. No, in realtà vorremmo impostare il discorso così, fino a dove ci si può spingere da parte dei genitori a... possiamo dire imporre nei confronti dei propri figli, soprattutto quando sono molto piccoli, non so, un anno, due anni, tre anni, degli stili di vita che decidiamo noi per loro, di fatto. Cioè l'alimentazione etica può essere pieno esercizio di potestà parentale ignorando le conseguenze che in un organo in formazione, non in un corpo adulto, equilibrato, eccetera, può avere? Ecco, la domanda che naturalmente spacca molto a seconda di come uno risponde. No, ci sono due casi di cronaca. Partiamo da quello per cui abbiamo un avvocato qui a parlarne, e cioè il caso di cronaca di una donna che è riuscita a ottenere una causa vinta in tribunale, e ora la scuola di Monza sarà obbligata a dare la dieta vegana al proprio figlio di 8 anni. L'hanno perso in primo grado e in secondo grado hanno riconosciuto te. Esatto. Tra l'altro anche credo con non fosse d'accordo il marito, ecco, questione all'interno della coppia. Comunque l'avvocato Carlo Prisco, che è con noi, l'avvocato di questa donna, di questa signora che ha vinto la causa. Buongiorno avvocato Prisco e grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a voi di avermi invitato. Saluto anche, salutiamo Fabio Roia, che è un magistrato, ci aiuta spesso in questi casi all'associazione Soggetti Deboli del Tribunale di Milano. Dottor Roia, buongiorno. Buongiorno grazie. A tutti. Allora, avvocato Prisco, la questione è questa. Questa donna ha vinto e ora la scuola dovrà dare il menù vegetariano, vegano o vegetariano? Vegano, credo. Vegano. Alla scuola al figlio di 8 anni. In realtà mi permetto una correzione, in realtà il caso non è proprio come descritto, perché la causa verteva sulla controversia tra i genitori, sì, che appunto perché il padre non voleva, esatto, la madre voleva la dieta vegana e il padre no, e questo in realtà non era un appello ma è un altro giudizio che si è instaurato a seguito di uno che già c'era stato, ma vista la materia appunto non si tratta di un appello ma semplicemente di una modifica del decreto precedentemente emanato dal Tribunale dei Minori di Milano. Va bene, comunque il risultato alla fine è che questo bambino avrà, cioè la scuola dovrà dare la dieta vegana a questo? Sì, non proprio, nel senso che la questione era che la mamma voleva una dieta interamente vegana e il decreto del Tribunale di Milano diciamo che oggi è stato modificato, imponeva che almeno a scuola il bambino mangiasse tra virgolette onnivoro, e pertanto quello che oggi abbiamo avuto è stato il concedere una dieta interamente vegana a scuola. Esatto. Ma perché questa battaglia di principio? Ma Ma guardi, allora io in realtà... Tra l'altro lei, diciamo, lei è l'avvocato considerato dei vegani, è vegano, sì, anche lei, sì, ha scritto il libro Il dovere del vegetarismo, insomma, quindi è un avvocato che sposa la causa in toto, diciamo, non è solo un avvocato, è anche proprio... ci crede. Sì, sì, beh, in realtà è quello che più interessa forse il libro, Il diritto al vegetarismo in questo caso, dove appunto espongo proprio le motivazioni che poi hanno portato anche a vincere questa causa. Ma in realtà io credo che il problema sia già nella domanda che ci poniamo, perché è indice di un paradigma erroneo, cioè il fatto che noi diciamo che chi fa una scelta vegana in realtà fa un'imposizione, mentre in realtà chi fa comunque una scelta per il proprio figlio, sì, e comunque la deve fare, che si mangi carne o che non si mangi, comunque impone le proprie vedute. E il problema vero sta nel fatto che noi siamo abbastanza disinformati, perché diamo per scontato che la dieta onnivora sia quella corretta per l'essere umano, e quindi riteniamo che sia un'imposizione cambiare questa abitudine, ma in altre parti del mondo per esempio non è così, storicamente non è stato sempre così e la scienza oggi ci dimostra che non è così, quindi io mi permetterei di spezzare una lancia a favore di un'inversione di questo paradigma. Beh, questo però più Oscar, più una difesa più che da avvocato, da uno che ci crede. Quindi... oddio, da avvocato direi, perché anche quello che poi ci porta a no, ma qui la questione però è capire, non so Oscar, se Fabio Roia ci può aiutare, dove, come giustamente tu hai impostato, se l'alimentazione... No, io aggiungi da me, non sono medico, quindi prima di dire qualcosa, di sentirmi dire l'elenco, no, ma zero non titoli, non è una questione però, medica. Su questa materia ci sono fior di pareri per i quali la risposta è benissimo, ci possono prendere gli integratori, però ci sono fior di pareri accumulati che spingono spesso il tribunale poi a fare interventi in cui si entra proprio nell'esercizio della potestà parentale, non tanto nel menù a scuola. Ci sono un altro caso, abbiamo letto due giorni fa c'è stato un caso di un neonato che un anno è stato ricoverato al Fate Bene Fratelli in gravi condizioni, perché i genitori... In quel caso ci sono pareri, fior di pareri medici che dicono: momento, aspetta un po', però entrano in gioco i tribunali, Roia, e come entrano in gioco? Allora bisogna fare un discorso molto come dire, di base, perché il bambino, il minore ha un diritto proprio, noi genitori, mi ci metto anch'io anche se le mie figlie ormai sono maggiorenni, non abbiamo un diritto da trasmettere su quello di nostro figlio, ma il bambino, il minore è portatore di un diritto autonomo, quindi il genitore deve interpretare questo diritto secondo dei parametri migliori. Il tribunale interviene quando? Qui stiamo parlando ovviamente del diritto alla salute, che è il diritto fondamentale, sì, quello che la nostra Carta Costituzionale mette all'apice di tutti i diritti. Il tribunale interviene o come nel caso, io parlo avendo letto i giornali, sì, o come nel caso in cui ha portato l'avvocato c'è un altro genitore che si oppone, oppure quando nell'altro caso che ha citato lei del Policlinico di San Donato si trova un bambino in condizioni di particolare nutrizione. Quindi qui non è tanto un problema di dieta, è capire se questa dieta rappresenta una possibilità di alimentazione completa da parte del bambino. E qui entra in gioco la scienza medica, perché taluni dicono per esempio che nella dieta vegetale mancherebbe la vitamina B12, che è fondamentale per lo sviluppo neurologico, tant'è che per esempio, sempre leggendo i giornali, mi sembra che nel caso a cui faceva riferimento l'avvocato, il tribunale ha detto sì, va bene la dieta vegana, però attenzione, facciamo i controlli ogni 8 mesi sul bambino per vedere se cresce bene, se le funzioni vanno bene, se non c'è un problema di malnutrizione. Quindi noi genitori possiamo, come dire, avere delle convinzioni culturali di qualsiasi tipo, in questo caso parliamo di convinzioni culturali legate all'alimentazione, ma dobbiamo però capire e tenere presente, perché altrimenti non facciamo bene il nostro dovere di genitore, che non possiamo trasferire quello che vogliamo noi nell'interesse del bambino, ma dobbiamo far sì che quello che scegliamo per il nostro bambino sia il meglio in assoluto, anche al di là delle nostre convinzioni. Cioè, esatto, no, mi è piaciuta molto la frase che si spiega: non abbiamo un diritto da trasmettere, ma un diritto che è quello del bambino da tutelare, almeno da interpretare nell'interesse del bambino, tenendo conto ovviamente che è un esserino che ha 1, 2, 3 anni e che quindi strutturalmente è diverso da noi, quindi questo va ovviamente rappresentato. Diciamo che sempre leggendo sui giornali, è chiaro che laddove si legge di un bambino di un anno in grave crisi di salute, lì cioè ci sente di poter dire veramente che il diritto non sia stato tutelato. La questione è, cioè, c'è un limite anche di età? Anche se la risposta ai genitori non era ispirata, ma è chiaro, a questo. Però cioè, voglio dire, i genitori possono dire quello che vogliono. Quello che vuoi, però abbiamo anche sentito nelle parole dell'avvocato, primo avvocato Prisco, una persona equilibrata, eccetera, sentire esplicitamente parlare di una imposizione culturale ostile. Allora, chi immagina che ci sia un'imposizione culturale ostile non è proprio prontissimo a dire no, la vostra interpretazione del diritto di mio figlio prevale, perché dice voi siete il braccio armato attraverso il diritto, la legge e la bocca e la decisione del magistrato di un'impostazione prevalente che noi combattiamo. No, però è interessante capire, perché nel caso del bambino di Monza, dottor Roy, adesso poi c'è l'avvocato, ma un bambino di 8 anni è in grado assolutamente di esprimersi, è in grado anche di valutare, per esempio, proprio lo dico brutalmente, oh, voglio la carne perché mi piace l'hamburger, oh sì, no, ma mi fa schifo la verdura. Certo, no. Però il bambino di 8 anni, guardi, non sono in grado io di dirlo, che ne ho qualcuno di più, ma dico, un bambino di 8 anni non è certo in grado di fare una pianificazione alimentare, no, non capire, no, questo è no. Ovvio, non è in grado di capire se per esempio per la sua alimentazione e la sua crescita corretta ha bisogno di determinati alimenti e in quale misura, ecco perché intervengono i tribunali che si chiamano per i minorenni, oppure quando c'è una contesa fra genitori, tribunali ordinari. Questa è la funzione, proprio tutelare il diritto autonomo del bambino. Le faccio un altro esempio, tanto per spiegarmi meglio. Ci sono genitori che per un fatto culturale e religioso sono contrari alle trasfusioni di sangue. Allora è accettabile che a un bambino non venga emotrasfuso qualora vi sia la necessità? No, in questo caso interviene sempre il tribunale per i minorenni, che si sostituisce nell'interesse del bambino a quella responsabilità genitoriale, in questo caso viziata, perché prevale, come dire, un diritto culturale di tipo religioso dell'adulto rispetto ad un'esigenza obiettiva del bambino. Sì, e ci ha spiegato, mi sembra male, ha spiegato varie volte che viene tolta la patria potestà in modo temporaneo, giusto il tempo per fare la trasfusione. Vedi che sei rimasto patria potestà, no? Potestà parentale, tu sei rimasto quando il maschio non conti niente. Ma piuttosto, domanda. No, scusa. Ha fatto bene a ricordarmelo. Ho alzato la testa un secondo. Ma Roya, senta, ma i tribunali per i minorenni rimangono nel nostro ordinamento o spariscono? E qualcuno li vorrebbe togliere. Noi siamo un po' contrari, certamente hanno dei difetti, però hanno una funzione fondamentale. Anche perché la specializzazione sulla materia non è male. Esatto. Darla alla magistratura ordinaria non specializzata non è la stessa cosa. Questa è un'opinione mia, No, anche perché i tribunali per i minorenni hanno la presenza di figure ausiliari, di esperti, neuropsichiatri, psicologi infantili, che ovviamente non ci sono nella magistratura professionale. Sentiamo due ascoltatori. Alessio ci chiama da Roma. Buongiorno Alessio. Siate, se possibile, brevi e sintetici, che il tempo corre. Alessio. D'accordo, buongiorno e grazie prima di tutto. Io volevo solo dire che sono assolutamente a favore della libertà di scelta da parte dei genitori, che hanno il diritto ed il dovere di scegliere per i propri figli. Salvo però poi prendersi tutte le responsabilità del caso anche in termini penali nei confronti di scelte sbagliate o avventate. Diritto-dovere. Io sono contro il veganesimo, vegetarianesimo, però per esempio rispetto a mia moglie che è vegetariana, noi abbiamo due figli, uno mangia carne a non più non posso, l'altra no. Cioè ve lo siete divisi, uno e uno. Sì, infatti, ci richiamo divisi. Però secondo me i genitori hanno il dovere ed il diritto di fare delle scelte e poi di prendersi tutte le Però è bello quello, Alessio, quello che ci diceva, il diritto in realtà, come ci ha detto il magistrato Roy, il diritto di tutelare su un bambino dei minori nei primi anni può provocare, dipende da come esercitato, in che forma. Io non voglio assolutamente mettere sullo stesso piano diete di tipo vegano, vegetariano, a seconda di come sono fatte, ed equilibrate con quale integratore. Però detto questo, se esercitano il loro diritto a pieno, possono poi ottenere conseguenze permanenti sulla salute del bambino. In ogni caso, hanno il dovere di tutelare il bene dei minori. Questa è il succo anche dell'intervento che ci ha detto Roya. Massimiliano, però, da Firenze ci chiama. Massimiliano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Ma volevo dire che il tema è proprio quello della responsabilità. Cioè, i genitori hanno la responsabilità di custodire e di aiutare i bambini a crescere. Siccome i fatti di cronaca ci parlano di bambini ricoverati in condizioni di grave malnutrizione, allora il tema non può essere affrontato sul diritto dei genitori di imporre, il tema va affrontato sul diritto dei bambini alla salute, che è quello, un diritto nativo. È quello che ci diceva, Roia, esatto. Diceva il magistrato. Però, avvocato Prisco, per concludere, in questo caso il diritto del minore di 8 anni mi sembra che sia stato tutelato, però il genitore non era d'accordo, il padre. Come la mettiamo? Cioè, come... Beh, io intanto mi permetto di fare un attimo chiarezza, perché sento di riferire dei casi che però non sono esattamente come vengono riferiti, cioè quando si parla di malnutrizione e denutrizione anche del bambino della notizia dell'altro giorno, in realtà se andiamo ad approfondire sono notizie già pubblicate, gli stessi medici confermano che i problemi, come in questo caso, era per esempio una malformazione cardiaca. Quindi se andiamo a verificare, la malnutrizione è una cosa che prescinde da che cosa uno mangi, vegano, onnivoro, vegetariano. La denutrizione ha anche un'altra cosa, ma le carenze di cui si parla sono ovviamente un'incomprensione. Questo caso non lo conosciamo, diciamo, ci affidiamo, rimaniamo al suo caso, giusto per chiudere. Sì, come va a finire? Cioè, ci sarà la dieta vegana a scuola per sempre di questo bambino di 8 anni? In realtà la dieta vegana sì, ci sarà e c'è già, c'era già stato un provvedimento interinale, ma io mi permetto di aggiungere che questo è stato possibile proprio perché, per quanto mi riguarda, l'aula di tribunale è il luogo ideale dove far valere le ragioni del veganismo, proprio perché, come dicevo, ci sono prove ed evidenze scientifiche che si tratta di tutelare la salute del minore in questo modo, ed è per questo che in questo caso abbiamo prevalso. Cioè il concetto è Oscar, no, non è che voglio togliere la parola, ma siamo in conclusione, il concetto è che è più sano, scientificamente provato che è più sano, ci dice l'avvocato Prisco, quindi... No, però la domanda, no, ma che devo fare quando mi si dice che è dimostrato, non c'è dialogo, come devo dire? Alzo le mani. Noi avevamo chiesto, ma il padre non era d'accordo, risposta evidentemente anche il padre non è illuminato da questa consapevolezza, il padre se ne farà una ragione, come tanti padri è sempre così, è altro che patria potestà, ecco. Va bene, ringraziamo l'avvocato Carlo Prisco, ringraziamo Fabio Roia per essere stati qui. Noi torniamo domani, caro torniamo Oscar. Domani, c'è Paolo Corleone in regia, ci sono Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli in redazione. Che dobbiamo fare? Siamo padri, siamo in minoranza, siamo capito? Padre, io e te siamo padri. Consoliamoci. Dovevamo nascere in un'altra epoca. Con un buon caffè. Esatto.